partito politico con qualcuno sempre. Hola. Buonasera a te. Mi hai copiato? Sì, ti ho copiato. Come sto facendo di radio? Che avevo questo microfono che stava andando male. Adesso è pulita, perfetta, non senza rumori, liscia, perfettissima. Accumulato, perché l'abbiamo fatta, mi ha fatto diventare c'è. Sì, può essere. 9+15 se ti può interessare. Thank you. Andavè. Cosa hai fatto? Spero. Stavo facendo un po' di giro di frequenze, un po'. Poi ho detto, ma adesso vado dopo. Anche un po' in 27, vediamo un po'. Sto provando il microfono anch'io. Ma niente di speciale, Anthony. Tutto normale. Sta morendo la 27, non c'è più nessuno. Boh, c'è uno che fischia, avanti? Avanti che fischia? Boh, non lo sento. Sente un fischio, uno che sta fischiando sotto, ma no, non si capisce chi è. Là c'è il fischiato, c'è uno che fa le pernacchie, ogni tanto, però non parla mai. Prima mette la portante, fischia, quando lui ci veniva avanti si fa la pernacchia, tu. Alle capisci. Ci sono ancora quei personaggi lì? Infatti, sono stupito. Siamo già nel 2018 e siamo ancora a questo punto. Dalla serie non hanno altri divertimenti. Aspetta, un attimo. Oh, yeah. Dalla serie non hanno altri divertimenti? Evidentemente no. Okay, dai. Molte volte me ne vado nel canale 23, almeno lì c'è qualcuno, sente la serie. Perché qua... Massimo sta chiamando il mio occhio. Vediamo, forse così va meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hola, KK. Oh. Sono rientrato, Ehi, già sono anch'io qua. No, signor, ho dovuto togliere la pettorina al cane, che mia moglie non gliela fa togliere, perché l'ha portato un po' in giro. Però qua rimaneva con la pettorina, e la fa a miglia un pezzo se gliela lascia. Me lo posso immaginare. Un attimino, sono al telefono, da lì. Uia, non c'è problema. Ehi Natali, se sei lì rimani lì, però tanto fra 10 minuti c'è Bonolis. A te la pigli in culo, tu e Bonolis. Bene sto scendo con questo microfono. Adesso sembra che sia migliorata. Adesso è migliore. Cos'hai meno cuffia? Cos'hai fatto? L'MDP4 mi ha aggiustato. Sì, buona, ottima. Quello è l'omologato, così è. È ottimo. Sto buscando i coperchi, la mascherina, le manopole, me l'ho fatto nuovo questo omologato. Eia. Vabbè Natali, ti conviene stare là, perché te l'ho detto, io sono entrato per un saluto, ma poi vado, fra 5 minuti inizia 5-10. Amplifica? Sì. Io mi ricordo quando avevi il mic normale, la bassina, la voce, ti devo dire, alza più forte, parla vicino al mic, invece così è buono. Sì, ce l'ho, saranno 40 centimetri da lontano. Di lusso. E te credo. Ho fermo. Ciao Gianfra. Adesso sì che si ragiona. E beh, e con tutto che ho fatto anche la modifica per amplificare di più, se la metto amplifica anche di più. Adesso ce l'ho a 7, là. No, lascia così, non toccare niente. Ma mi dite piuttosto che fine ha fatto Claudio. E non lo sappiamo. Magari è impegnato, non sta più entrando. Io non l'ho né più visto e né più sentito, la verità. Forse è impegnato. È impegnato nella casa di Ossi, credo. Ah, ho capito. No, perché così mi stanno facendo tutti gli altri che sono andati in pensione. Le chiamo, eccetera. Chi è finito in ospedale, chi è a casa malato. Sembra quasi una maledizione. Capitomi, se ne vanno in pensione e smettono tutte le attività. Infatti. Vabbè, capito, non ci andiamo, dai. Non ci andiamo, rimaniamo fino a 90 anni. No, non ci andare, no. Chi si ferma è perduto. Infatti così. Marco, sei in pensione quando fai? Io è da una vita che sono in pensione. Allora siamo noi che ti manteniamo. Vacca, quanto ci costi? Ah no, io sono a carico di mia madre. Già paga tutto lì, il ticket, tutto lì paga. Anzi, io per lo Stato non esisto. L'unica cosa che faccio per cui esisto per lo Stato è perché pago, perché vorrei votare. Per il resto non esisto per il fisco, non esisto da nessuna parte. Potrei essere un apolide. Già ce n'è tantissimi, già sono in buona compagnia. Grazie a questi dove mi sono succeduti, già mi hanno fatto i disastri. Vabbè, quindi tutto bene, vuole che finisce bene, diceva quello lì. Non l'hai sentito il bollettino di guerra, che ci sono 180.000 lavoratori in pericolo. Poi si lamentano che ci sono scontri prima delle elezioni politiche. C'è la destra da una parte che giustamente si fa sentire, la sinistra dall'altra parte si fa sentire lo stesso, poi quelli dei centri sociali, miei buoni. Insomma, un po' di tafferugli, dai. Se andasse tutto bene nessuno manifesterebbe più, perché tutto va bene. No, vabbè. Poi la gente, tutto va bene, se non sta attento. Non abbiamo neanche più la sanità se continuiamo dal suo passo, se l'altra devi pagare. Sì, finiamo come in America qua, e se non hai l'assicurazione non ti curano. Oioi. O Natali, in Italia i veri negri siamo noi. Adesso te ne sei accorto. I padroni diventeranno quelli veramente negri. Già non stiamo facendo figli. Con tutti questi immigrati che abbiamo diventeranno loro italiani, non noi. Noi quando morimo da voi non vi sarà più nessun italiano. Qui non conviene, con i pannolini che c'hanno quei prezzi, però guarda bici, ma non mi sa neanche di chi ne stiamo facendo. Natali, l'altra volta Salvini è andato in questo edificio che accoglieva questi neri, no? Un po' isolato, un po' fuori mano, non mi ricordo in quale città, no? C'era stata pochi giorni prima una manifestazione e non erano contenti di niente, non erano contenti perché non gli piaceva la roba da mangiare, non gli piaceva questo, non avevano Sky per vedersi le partite, volevano i documenti, vogliono i documenti credo italiani per poter girare liberamente. E Salvini li ha interrogati bene o male, ha chiesto qualcosa, molti non parlavano nemmeno italiano, quindi e hanno detto che la pasta non gli piace, la carne non gli piace, e così, ecco là, vogliono i documenti. Ma questi cosa vogliono mangiare? La cosa è caviale da noi, non ho capito. Dice, scappano dalla guerra e vogliono... Già gli regalano il cellulare, mi pare, il telefonino, non so cos'altro gli danno, non sono mai contenti. Ci vuole proprio la faccia del culo, posso dirlo. Molti dicono scappano alla guerra, ma in certi paesi di guerra non ce n'è. Vengono a farsi la vacanza in Italia, boh. No, vengono in Italia perché se delinquono non gli fanno niente, lo dicono apertamente, andiamo in Italia, tanto loro non ci fanno nulla, se facciamo qualcosa, capito? Oi oi, per noi come siamo ridotti, si stanno facendo la beffa e continueranno, loro i diritti li sanno meglio di noi e chiedono mala sorte, protestano se tu non gli dai, e vogliono la cittadinanza, ma ti pare che tu possi dare la cittadinanza agli italiani, così diventano illegalmente italiani, boh. Vai Gianfra. Sì, quello che diceva, che c'era, che era Natalino, credo, si riferiva esattamente riguardo al fatto che non le fanno niente, a quello che aveva commesso un omicidio, che però non era di colore, non era esattamente stracomunitario, ma era comunitario proprio della Romania, dei paesi dell'est. Non mi ricordo se all'epoca era già nella comunità europea la Romania. Di questo, intervistato in Romania, gli hanno detto ma sarebbe d'accordo se l'Italia facesse un trattato per far espletare la pena in Romania. No, ha detto mio figlio deve rimanere in prigione in Italia, perché se arriva qua lo uccidono, no, in Italia, mettere in carcere in Italia gli sta bene. Sì, qua sanno che anche spacciatori, sì, li arrestano, ci fanno poi settimane dentro, poi sono fuori questi spacciatori nigeriani qua, no? È un macello, guarda, in Italia. Invece, Natali, come ti avevo detto l'altro giorno, ho visto un video dell'Ungheria, ho visto cose, come si chiamano? Cosi di filo spinato, alti, tutto, c'era l'esercito per spingere questi qua neri, questi migranti. C'erano anche carri armati, quelli non proprio carri armati, quelle camionette tipo carri armati ma con le ruote, no, con i pneumatici grandi. C'era l'esercito, c'era. E i pochi che hanno tentato di entrare a forza li hanno respinti in tenuta antisommossa, bastonate, avevano gli scudi, tutto. Li hanno respinti a bastonate. Se ne sono fuggiti. Sì, non li fanno entrare, manco uno li fanno entrare. Cosa vuoi fare entrare? È logico, anche l'Italia deve mettere, noi ce le abbiamo le navi della Marina, basta dare l'ordine, cazzo, e le vedi in acque internazionali, ti chiudi una mitragliata davanti e una dietro, le vuoi vedere fuggire, cazzo vostro ci vuole, e non li va a entrare, e quelli che ci sono li mandi via. Deve ritornare come fanno in America, in Australia, manco con i documenti ti fanno entrare se non ti puoi mantenere, perché ti dicono tu quando c'è il visto per turismo non puoi neanche lavorare lì, quindi ti dicono quanto ti deve rimanere qua, tu di un mese a modo di dire, e per un mese lì ci vuole $1,000 per esempio. Tu non sai, $1,000 non ti fai in intratti, poi non mi torna sopra l'aereo a casa tua. Sì, hai detto bene l'Australia. Se tu ti ricordi, guarda, che un paio di mesi fa stavamo guardando quei telefilm della Marina Militare Australiana, titolati Ciapato, ci sono anche su YouTube. E di lì, in Australia, le loro leggi anti-immigrazione sono molto molto severe. Se ti trovano in mare, innanzitutto ti fermano, anche se stai pescando o facendo quelle attività, ti controllano, perché molti pesci non si possono catturare. E se invece trasporti immigrati, guai, ti sequestrano la barca, ti arrestano, e gli immigrati, dopo averli rifocillati, ovviamente, perché la legge del mare, li rispediscono immediatamente indietro. qua purtroppo fa troppi anni c'è stata la politica del volenterosi bene, e si sa, di questi tempi il volenterosi bene in Italia soprattutto ha fatto danni, ha messo fuori la gente che doveva stare in carcere e ha fatto danni enormi in tutti i settori e in tutte le attività. Quindi abbasso il volenterosi bene. Sì, ma tu di Max vai, canale 52, e vedi l'America, tutte queste cose qua, e te le fanno vedere. Ti sto dicendo, in Italia ce ne vogliono 6 o 7 di poliziotti per arrestare a uno, in Chile di nuovo uno, e boh, perché lì se ti muovi ti sparano. Ma hai capito? Anzi, per non spararti hanno il taser loro, se tu fai resistenza ti sparano col taser e ti buimineggiano. E ti assicuro, quello non è uno storditore di quelli che vendono in Europa, no? Quello fa veramente male, proprio perdi il controllo dei muscoli, a seconda di come va ti fai la pipì e la cacca addosso anche. È così. Catalin, per metterti le manette ce ne vuole uno, massimo due poliziotti, solo che i poliziotti li sono alti 2 metri e sono tutti ben addestrati. Adesso se non provieni dall'esercito manco ti prendono in considerazione per fare la domanda in polizia in America. E se no come li trattano? Per la minima cosa ti mettono le manette, no, quando ti fermano, no, se non ubbidisci guai. Lì cazzo non è come te oggi, no? Sì, per arrestarti ci vogliono 6 o 7 poliziotti, ma bucurendisi, e uno viene di lì e basta. Cazzo, lì sono super addestrati, ti mettono mano, ti fanno nuovo. Sì, nata lì, però quella lì è anche molta sceneggiata televisiva, perché se poi guardi i filmati reali, soprattutto della polizia, eccetera, eccetera, li vedi, hanno la pancia da far paura, li voglio vedere inseguire la gente, lasciando il coccolone subito, soprattutto se insegue qualche ragazzino. Quindi non sono esattamente tutto muscoli e cose come ci fanno vedere in quei filmati o nei telefilm. Io li ho visti a Cagliari, anche quando ero a Napoli, quando facevano la ronda, e ti posso assicurare che sì, c'era quello di colore grosso, ben piazzato, eccetera, ma molti avevano questa pancia che era quasi micidiale, perché quelli bevono molta birra e quelle cose lì, whisky, poi non parliamo, capito? Quindi quello magari no. Però di buono c'hanno, lo sai, non è quella la versione che diciamo ti lascia un po' così. È il fatto che se ti prendono sordito e manette o sincaro, tutto quello che vuoi, però poi finisci davanti al giudice. Però hanno paura dei giudici, capito? Non della polizia, hanno paura dei giudici, perché se capiti in mano a un giudice di quelli cattivi e finisci in mano di quelle prigioni, voglio vedere se dopo ci riprovi. E infatti, cazzo, in Chile per la minima cosa c'è l'arresto. Pure per cose stradali, se ti trovano cazzo correndo e cosa, lì non ti fermano per controllarti mai. Lì ti fermano solo se fai qualcosa. Se fai qualcosa ti ferma. Cazzo. Però lì li trattano proprio male, perché io ho visto filmati che, guarda, li quasi una beffa, sino in prigione. E belle amico, le prigioni là, dove ti trovi? L'Alleanza Ariana da una parte, i Fratelli Neri dall'altra, poi Latinos, tutti quelli portoricani, cubani, e lì non esci vivo, perché ti si vogliono trombare, tutti i gruppi che vai ti si vogliono trombare lì. Il segno di rispetto, capito? Natalicio, andiamo subito a Marco! E lì ci vuole Marco, cazzo, lo fanno nuovo. Ma su YouTube avevo visto una prigione, già passava la foto iniziale, gente tatuata, tutto, sai, segni delle bande, completamente tatuata, la testa. Ho detto, io qui quanto durerei, quanti secondi durerei vivo? Penso pochi. Mamma mia, certe prigioni in America usano la mano pesante, ma perché lì c'è criminalità terrificante, ci sono bande in molte città, in molti quartieri, e lì purtroppo ci sono troppe armi in giro anche in America, non in tutti gli stati però, certi stati hanno dato un freno, comunque i delinquenti se le procurano come niente. Mamma mia, da noi vabbè ancora le prigioni, ma lì mamma mia. Poi lei dice le più terrificanti, le più violente, le più incredibili sono le carceri tipo centroamericane, sudamericane, tipo Carandiru. Un nome alla garanzia. Sì, quella russa perché sono qui. Vabbè, lei anche lì. No, dipende, vabbè, io più che altro ho visto quelle tra video, così, foto. Quella volta una sommossa a Carandiru, c'erano varie teste tagliate. Mamma mia, vabbè, in Russia poi non ho visto, però c'è un'altra realtà brutta anche lì. Mamma mia, a finire in quei posti. Poi certi sono più lager che prigioni in certi posti. Hanno più l'aspetto proprio del lager o del gulag che non delle prigioni. Infatti in America sono più civili, là, però si tratta di mare a vero. Anche per uno che fa una cazzata e finisce in prigione, lì, che no, se non è delinquente propriamente come i delinquenti veri che ci sono lì. Io lo faccio, mi ero conosco. L'ho fatto. Perché lì ci vuole poco a finire in galera. Basta che si trovano ubriaco, che fai casino e ti arresta. Ma lì ti fermano anche, i poliziotti ti fermano anche se c'hai uno stop bruciato, roba del genere. Quantomeno ti avvertono, poi se sono di quelli pignoli ti fanno anche la multa. No, se ti fermano ti fanno per forza la multa, per forza, non ne perdono tempo, no. Non ne perdono loro e non ne fanno perdere a te. Capito? Perché io seguo un camionista qua che non l'hanno mai fermato, questo era un ex poliziotto della stradale italiana, no? Beh, lo sai che col camion non l'hanno mai fermato, in macchina l'hanno fermato una volta e gli hanno messo anche le manette. Guarda, un paio di amici, diciamo ex, che sono stati in America, lì c'è, cioè, quando il poliziotto ti ferma che ha qualche sospetto, che ti dica tenga te le devi tenere sul volante in vista, se fai mosse brusche abbassi le mani, che ne so, apri il cassettino, cioè, se lui ti dice tenga le mani sul volante le devi tenere lì, quando ti dice prenda il libretto della macchina, la patente, gli devi far vedere quello che prendi, fare mai mosse brusche o farti vedere nervoso, perché sennò poi finisce male. Infatti, poi la cosa brutta in America è che le armi non sono registrate, quello brutto è quello che non puoi risalire malassorte, non è come qua. Tu la puoi dare a uno, la pistola e non è registrata, capito? Quindi non risalgono mai se fa qualcosa, non sanno di chi è la pistola. È un casino. Però, per esempio, in Texas ci sono le regole. Sì, la puoi avere la pistola, la puoi comprare, però se te la vuoi mettere addosso devi avere il porto d'arma obbligatoriamente. Se no, non la puoi portare addosso, la puoi tenere nel cassettino della macchina, a casa, però addosso no, senza porto d'arma. E poi la pistola prima dei 21 anni non te la puoi comprare assolutamente, puoi comprare solo un fucile a 18 anni. Però Natali, se secondo me era così, delle armi non registrate negli anni 60-70 seppure, ma guarda che molti stati hanno dato un giro di vite per le armi, perché sennò è il caos lì, il caos. Poi ogni tanto vedi, hai visto questi ragazzetti, mezzi scoppiati, se non scoppiati del tutto, no? Di cervello, entrano in una scuola e cominciano a sparare a tutti. A tutti, professori, alunni, così. Come si immaginano di essere in quei giochi, spara tutto del computer, no? Sì, deve essere così. No, no, comunque l'affare della denuncia non esiste lì, capito, perché io seguo questo ex poliziotto che fa il camionista adesso in Texas e non esiste la denuncia lì, capito. E poi per comprarla non è che te la danno subito, no, la pistola. Tu vai in armeria avendo i 21 anni, no, per poterla comprare. Però prima di dartela passano le impronte al coso, mia, ci vogliono le impronte. Chiedono all'FBI a vedere se c'è niente, perché se c'è la minima cosa non te la vendo. Capito? Non è che tu vai al supermercato e te la compri, no, non esiste più quella storia lì. Prima i rubati erano veri, se c'erano nei supermercati e te le compravi. Ehi, comunque Natali, ricordati che negli Stati Uniti ci sono ben 50 stati e ognuno magari si fa un po' le leggi un po' in autonomia, non è che in tutta l'America è così. 50 stati, caspita. Ci saranno delle differenze più o meno evidenti, dai. Ci sono intervistati, per esempio lui se va in un altro stato il suo porto d'arma, secondo come va, no, non è valido. Hai capito com'è la situazione? Non lo riconoscono. Secondo in che stato vai. Per esempio lui va in Oklahoma e non gli vendono manco le armi, nulla. Perché il suo porto d'armi non vale. Ed è vicino. Sì, però in molti stati c'è anche la registrazione di norma, 24 ore dove sia, entro 24 ore ti presenterà la polizia per dire che è stata un'arma. Però anche da noi è così, cioè in realtà per avere un'arma non è necessario avere il porto d'armi, perché basta la semplice denuncia. Quindi chiunque può comprare, ovviamente maggiorenne, senza precedente, eccetera, eccetera, può comprare un'arma, la prende e la mette in casa, al sicuro. L'importante è che sia denunciata. Il porto d'armi si intende solo per il porto, quindi per portarla fuori di casa, ovviamente dentro il cofano, perché poi ce ne sono di varie tipologie di porto d'armi, per difesa, ma il porto d'armi normale, poco da caccia, puoi portare un fucile, da lì al luogo di caccia. Se, certo, se te lo porti allo stadio da restare immediatamente, ecco. E queste erano le ultime disposizioni. Non funziona così? Assolutamente, Gianfranco, perché noi andiamo, voglio vedere se te la vendono la pistola a te, manco per le scatole, ci vuole la denuncia di acquisto prima e la denuncia di detenzione dopo che l'hai acquistata, non lo vedi, prendono prima informazioni, prendono, prima di farti la denuncia d'acquisto, se non hai quella non te ne vende l'armaiolo. Sì, io credo, in ogni caso bisogna avere sempre la denuncia, quindi devi andare, dire il tipo d'arma che compri, il calibro, eccetera, eccetera, poi andare in questura, poi ritornare, traslare il tutto, la cosa più importante è la visita medica, e tutte che credo, adesso non ricordo dove si fa da Arezzo o da quale parte, comunque adesso un medico dell'ASL è una medicina militare o legale. Però se ti leggi le ultime disposizioni anche sul sito della Polizia di Stato c'è tutto il coso. Mentre per il porto d'armi devi far forza a frequentare un corso, ecco, capito? Comunque, non è complicato, il fatto che il problema non è tanto avere l'arma, è che non la puoi praticamente usare. A parte che non la puoi usare, e poi ci vogliono due certificati medici ogni anno per la detenzione adesso, che l'hanno tolto da poco questa storia. Uno dal tuo medico, i documenti per il porto d'arma praticamente ci vogliono ogni anno, devi presentare. A ti conviene a detenere un'arma? Non penso proprio, a parte che i certificati te li fanno pagare. Cavolo, adesso mi scade il porto armi a me e devo rinnovare. Chissà se me ne vanno con le restrizioni che hanno messo. Se non me lo danno, lo so da fare. Prendermi e vendo tutto. Non devo stare ogni anno a presentare i certificati medici in questura. Io per non avere seccature di nessun genere e per non avere speso non mi sono preso niente e non detengo nemmeno armi. Per non avere seccature. Tanto è sempre la seccatura avere un'arma in casa. Controlli, coso, burocrazia, soldi anche da sborsare, per carità. No, col mio tasse non è pari. Ti dura 6 anni, dopo 6 anni porti 2 fotografie, 2 certificati medici e te lo rinnovano, capito? E dura altri 6 anni. Quello sportivo non paghi le tasse, per quello per difesa paghi. Ogni anno devi andare al tirassegno obbligatoriamente, perché scadi ogni anno. Per quello di caccia dura 6 anni lo stesso. Sì, dura 6 anni infatti, quello, io mi riferivo a quello di tirassegno, però a prescindere, quello è già fotogrammi comunque, fotogrammi per uso sportivo, io mi riferivo a quello in cui tu la pistola te la tieni in casa, dentro un cassetto, possibilmente carica, e di lì diciamo non ci sono particolari problemi, ecco. Anche perché molta gente le armi le eredita dal nonno, dal padre e così via. Vanno sempre denunciate, con tutti i costi, però non ci dovrebbero essere, a parte soldi di sganciare, grandi problemi. Il problema è nell'uso, perché proprio le ultimissime sentenze sembrano che abbiano detto finalmente che se sei in pericolo di vita, quindi se qualcuno che entra dentro casa per aggredirti, sembra che si possano usare, sembra. Anche l'arma, diciamo, non c'entra niente a avere o non avere il porto d'armi, basta l'arma che sia denunciata e d'altronde uno potrebbe usare anche un coltello alla cucina per difendersi. E questo mi sembra giusto. Sì, infatti. L'importante è che non lo spari alla schiena, sennò finisci in galera. No, in fronte. Un messaggio che basta. Una volta si chiamava nulla osta per il permesso per avere la pistola in casa Natalia, vero? Sì, nulla osta della questura devi avere, sarebbe la denuncia d'acquisto, se no tu non è che puoi andare in un'armeria e te la vendono quello là, la pistola non te la dà assolutamente, perché lui deve essere sicuro che tu sia una persona come si deve, che non abbia conti in sospeso con la giustizia. Capito? A mio fratello gliel'hanno negata, per esempio, perché non ha saputo parlare, perché alla fine si è rotto le scatole e l'ha risposto come l'ha risposto al capo ufficio dell'ufficio porto d'armi, e non gliel'hanno rilasciata la denuncia. Se lui si voleva comprare una carabina di quelle ad aria compressa, gliel'hanno negata. E vabbè, ma se lui va anche a rispondere male ai quesiti che gli pongono, già ne vede domani. Si è mancato poco che l'arrestava. Gli ha detto che doveva andare a sparare gli uccelli in campagna. Certo, che era furbo, che non l'hanno arrestato. Qua, si è mancato molto poco. ecco, per, ma gliel'ha detto in coso di spinta, perché questo ispettore gli stava rompendo le scatole. Mio fratello c'ha un carattere un po' così e l'ha risposto in quella maniera. Vada via! Ha fatto benissimo. A mandargliene, perché già ci sono in giro tantissime persone che per uno niente ti aggrediscono, quindi se questo sono accorti che è un carattere diciamo al limite della paranoia, meglio che non è tocchiarmi, perché sono i tipici tipi quelli che magari ti danno una coltellata così perché magari hai sbagliato qualche frase, ecco. Se sbaglio io, caso. E se l'altra volta, quando un paio di mesi fa è venuto qui e ha visto il mio fucile e lo voleva, ma giudizio, ma finalmente non ne avete a me. Così come quelli che si prendono la carabina a aria compressa liberalizzata, no? E vanno a sparare gli uccelli in campagna. E poi se li becca la forestale, o quantomeno i baraccelli, gli fanno la pelle lo stesso. Poi perché vuoi ammazzare quei poveri uccellini? Spara ai bersagli, spara alle latine, come faccio io. Ti pigli un bersaglio di carta, di cartone, se spari lontano ti pigli di quelli tipo arco, così almeno se sbagli sai dove va, troppo alto, troppo basso. E infatti tu non puoi andare a sparare gli uccelli in campagna, devi sparare solo al tirassegno con quello lì, e devi essere sicuro dove stai sparando e tutto. Perché se ti becca, io ne avevo una di quelle di libera vendita, che era potentissima, ci pigliava in un occhio di vadia gente. Beh, potentissima, deve essere sempre entro i 7 joule e mezzo. Se è più potente non è in regola. Come fanno molti, cambia la molla, te la fai potente, sì, poi vanno a verificare se succede qualcosa. E poi già passano 7 giorni e mezzo, cioè deve bucare il cartone di bersagli. Una volta ho sentito un vecchio miserabile che diceva mi volevo pigliare una pistola da compressa per sparare ai gatti perché non li posso vedere. Ti becchiani i ciclo, ti becchiani. Guarda, io ti posso dire, essendo proprietario di quel tipo d'arma, ce ne ho sia pistola sia carabina di precisione, se potenziate cosiddette, posso garantire che col mio telescopio a 30 metri ci mette una bottiglia d'acqua, piena d'acqua, va fatta da qualche parte con 7 joule, quindi sono 30 metri, non sono distanze così piccole per un'arma del genere, quindi figurati cosa combina se ti becca un occhio, guai, sono conseguenze gravissime. Infatti, ma sto scherzando, anche se sono aria compressa, io ne avevo una che era potentissima, una manurica era, tutta nera in polimeri, ma bellissima, l'ho venduta a mio fratello, l'ho venduta a... non a quello che gli hanno negato la situazione, a un altro. L'ho venduta e guarda, ti posso assicurare che era potente, ma molto potente, secondo me era troppo potente per essere di libera vendita. Ma mi esce anche il fumo, infatti fa lontano, perché a volte cioè come dovrebbe essere vapore di piombo, va? Ma è tremenda, Soprattutto fanno bene alla salute, mi vapori di piombo. Poi secondo i proiettili che metti anche, perché ci sono quelli che sono perforanti, che sono in acciaio, io ho bucato la lamiera di zinco di una di quelle casette in lamiera, con la mia. Figurati se non sono potenti. E quelli erano... non erano funghetti di piombo, quelli si schiacciano, invece chi dubassava male a tutti. Io attualmente ho ormai ormai ci saranno la polvere, le ragnatele, una Gamo 400 liberalizzata, presa appena hanno fatto la liberalizzazione, non la uso da un po' perché alla fine ti stanchi, almeno io, e poi una Gamo Auto 45, una pistola a CO2 che purtroppo ha un caricatore fatto per le palline tromboscheriche. E ho notato che la canna rigata, ma con le palline di piombo è abbastanza imprecisa. Si può però aprire la canna, mettere un funghetto e sparare un colpo per volta. Purtroppo è un modello antiquato e peraltro l'ho portato alla Pasquali per cambiare una valvola. Mi doveva chiamare per dirmi se la valvola mia, ne avevo una di scorta, se andava bene oppure se era da ordinare. Non mi ha più richiamato, tipico modo di fare. E quindi devo passare io ogni volta, l'hai aggiustata, no. Con un fucile da sub ci siamo stati 3 anni, poi ho rinunciato e l'ho lasciato lì. Bella è la PT80, ma ancora più bella è la PT85, veramente bella, quella, molto molto bella. Anche scarrellante, purtroppo anche scarrellante, perché scarrellando si perde un minimo di potenza anche. Nonata lì, ho visto dei piombini calibro 4,5 molto belli della HNN, non so che marca sia, HNN, e hanno la punta, hanno proprio l'estremità della punta in acciaio ed è molto a punta, dopo ti mando la foto, sono molto molto belli, quelli che volevo prendere per sparare all'amerino o roba del genere. Una volta me l'ho fatto, avevo sparato al mastice la plastilina mi, l'avevo lasciata un po' al sole in modo che diventasse morbida e gli avevo fatto un bel tromboncino d'uscita a me, un bel tromboncino, l'uscita era più grande, proprio splat ha fatto a me, splat, non so se è presente. A mia pensava anche il culo quella che avevo io di quanto era potente, boh, o hanno sbagliato e mi hanno dato una che sparava, ti sto dicendo, libera vendita, ma era troppo potente. La cosa di zingo io ho passato, ma la mia era di zingo di quelle casette che usiamo per gli attrezzi in campagna, ho sparato lì e l'ho bucata, ma la sorte. E l'ho data a mio fratello, a Mario, quello che è pescatore, e loro la usavano in barca nel peschereccio per tirare i gabbiani, e se no chi si anda nei rigura, nei rubetti, da rubetti. Da che distanza è sparata? Non tanto vicino, no? L'ho passata, ti sto dicendo che era troppo potente secondo il mio giudizio, era la più grande che c'era, una Nurica, tutta nera era, l'avevo comprata in quell'armeria che c'è lì dove c'è Fattinchiù, la città di Sassari, adesso non mi ricordo come si chiama quello lì. No, io ho provato da circa 10-15 metri su quella bottiglia di sugo, no? Tipo frutta, cilio, eccetera. Ho sparato su una di quelle bottiglie e l'ha fatta esplodere. E allora è potente. Se poi gli metti questi funghetti, non funghetti, piombini insomma, che non sono di piombo, sono con la punta in acciaio, come quelli che sta dicendo Marco, è ancora più potente, sono ancora più pericolosi questi. Ci sono anche in cosa, ho visto, anche piombini, però non vorrei che guardasse la rigatura a lungo andare, perché il piombo è morbido, quelle lì non lo so cosa succede. Nulla succede, che in acciaio la canna. Ma anch'io sono d'accordo che di non sparare i piumini, quella roba in ferro, perché la canna a lungo si usura, a lungo naturalmente, meglio sparare sempre roba di piombo che magari ha la punta e l'acciaio, però sulla rigatura ci deve scorrere il piombo, questa è la mia idea, Natali. Poi ho visto anche delle schifezze di proiettili di plastica con la puntina di ferro, però tonda, cioè arrotondata, che schifezze sono. Poi ti sporcano la canna di plastica, sai, di micro residui di plastica, non... certe sono schifezze, certe sono... Avevo anche piumini io, piumini, quelli con la a punta, con la codina colorata. Quelli sono carini, solo che a lungo andare rovinano la canna, quindi non li ho più usati. Ce l'ho io una bella carabina, che ti dicevo, solo che è molto pericolosa. Giù montore! Chi è? Poi ho avuto una carabina della Crossman, ma a livello giocattolo, no? Una carabina con corpo, impugnatura in polimero, no? C'aveva una canna ridicola dentro, vabbè, era CO2, però purtroppo aveva la potenza di una pistola CO2, la canna più lunga, ma non potevi andare oltre 15 metri assolutamente. Cioè, era molto lento il pallino, non... infatti poi l'ho venduta, l'ho portata a Pasquale, ho detto metti le vetrine e vendila, perché è un giocattolino, andava bene proprio 10 metri proprio, me. Troppo lento il pallino. E c'è un bel di marca Norica, Gamo, Diana, poi altre marche, adesso non me le ricordo. Poi ce ne sono, comunque le più precise sono quelle strane che hanno quella canna sotto e l'indicatore di pressione, come si chiama, PCP, PSP, non mi ricordo, quelle sono le precisioni andate lì. Ho visto uno, naturalmente era americano, quindi era piena potenza, non facevano almeno rumore perché hanno un silenziatore integrato, senti, tic, tic, e beccavo i passeri a 50 metri, 80 metri, insomma in yard era, però bene o male era quella la distanza. Una cosa allucinante. Come si chiama? PCP, PSP, già avete capito, no? Sì, quelli con la bomboletta d'aria, però sono anche, io volevo prendere, ma la mia mi ha detto no, lascio perdere perché sono, a parte che sono carissime, ma poi la manutenzione, ti fate un gommino, ti fate una guarnizione, diventi scemo. Preferito il colpo, il classico colpo singolo che mantiene tutta la potenza. Va bene, quella che ho io è una Stoager, una cosa del genere, comunque è una sottomarca della Bellezza, e va molto molto bene, anche perché era compreso il mirino telescopico, che è molto preciso, sembrava la solita cosa, invece è maledetto, fa il suo lavoro, si è tarato bene, è molto pericoloso, anche a 50 metri, quello che spari lo becchi. Tutto anche il laser per tarare quelle ustiche lì. No, sono andata lì, sai come facevo io? Ah no, però, come facevo? Un casino era. Allora, io ho preso l'ottica della Gamma, una 4x, ma era robaccia, robaccia, proprio otticamente era uno schifo, plasticaccia, però ti permetteva, bene o male, aspetta, com'è che l'avevo tarata la mia? Mi pare che l'avessi immobilizzata in qualche modo, no? Una specie di morsa avevo usata, in modo da quasi non muoverla caricando, perché devi fare leva, no? Sparavo una serie di colpi, un bersaglio ufficio, una serie di colpi, quando e taravo il mirino in base al raggruppamento di colpi. Diciamo grosso modo era tarata, però cioè, dove miravi bene o male andava, però non era delle migliori, questa Gamma 400. E poi diciamo che se liberalizzati hanno sempre poca potenza, sono un po' così, dai, insomma, sono liberalizzate, dai. Però almeno, insomma, sono più... A uno ho sentito che si era bruciato con proprio carabina di A50 o 75, gli si era bruciato un gommino, un casino. troppo potente, troppo, quelli almeno lavorano potenze basse, velocità basse. Poi alla fine mi sono buriato, non l'ho più usato. Alla fine un po' mi stanco delle cose, cioè ogni volta te la devi cavare in campagna, il trasporto è lecito, però poi se trovi l'ottuso succede sempre che fattori, no? A un baracello gli avevo portato, lui diceva no, non si può trasportare, ho detto ma se c'è la legge, gli ho portato la legge e le ho sbattute in faccia, lui no, non è così, se io trovo uno là lo denuncio. E allora fate come volete, cioè quando mi sento queste stronzate che alla fine poi baracelli, figurati, si credono superiori alle leggi, mi girano le palle. Non è il porto, è il trasporto, chi usa scarica nel cofano, niente, secondo lui era come diceva lui. Ma arrivi, la colpa è sempre tua, scusa, mi carabinieri dice guardi ma mi stanno per le palle, un baracello che non può che porti l'arma benché sia in regola, venite, perché questo fa rompere, avrebbero finito subito di fare il baracello, perché diventa una specie di abuso di potere, capito? E quindi lo metterebbero a posto subito, però se il cittadino si sta zitto questi ne approfittano. Comunque Natale ci sono dei pallini che sono dirompenti, che sto guardando, sono gli Hornet, anzi no, i Barracuda, scusa, HN, Barracuda Hunter, che sono proprio ad affamentazione. Evidentemente servono per rischiare, per espandersi dentro, dai, una cosa non tanto bellina, secondo me comunque. E le cornacchie vanno bene qui. L'altro mi no, allora questa cosa del baracello era il collega di un amico, no, ma ne stavamo parlando lì da loro, no, proprio a livello di discussione, e lui continuava a fermare nonostante gli avessi sbattuto la legge in faccia, stampata e portata, no, non è così, è come diceva lui. Cazzo, a me questi individui mi danno estremamente fastidio, come quando stavamo parlando con un poliziotto, sai, quelli giovani scoppiatelli, no? Ci sono delle bombolette di spray, il peperoncino per difesa, che possono essere portate, perché l'ha detto il Ministero dell'Interno, perché l'ha detto la legge, eccetera, eccetera, rientra nell'ENE, e lui ha detto... Ma sono legali, legalissime, cioè lo dice la legge, no, io se trovo uno con la bomboletta, noi denunciamo, no, in plurale maiestatis, noi denunciamo, cioè c'è gente ottusami che fa i controlli, e anche se tu stai usando roba legale, legalissima, sei nella norma, noi denunciamo, capito? Così intasano, come si dice? Così dai, intasano i tribunali per cagate, scusate il termine. Poi naturalmente non c'è luogo a procedere, però intanto ti fanno perdere tempo, capito? Dico, ripeto, ma questo è un problema tuo, se mi dice sì, c'ha ragione, faccia tutto, poi vado al comandante e ci vado, se questo fa, lei lo sta facendo anche una denuncia, e dopo la terminiamo, per abuso di potere, perché non conosce le leggi, e te lo trasferiscono, o le fanno una fatta di testa che piace anche a lui, e la prossima volta se vede una mitragliatrice sta zitto. Allora, avete parlato in due, è passato Natalino, però ho sentito il finale di Gianfranco, sì. Sì, certi credono di, sai, quelli giovani soprattutto sono che credono di fare il conto loro, che tanto gli danno ragione, pensano che il giudice dia ragione sempre a loro, capito? Poi adesso hanno ampliato, prima era messa solo una specie di bomboletta fatta a penna, no? Il K-Defender, adesso praticamente le bombolette devono essere non superiori ai 20 millilitri di spray al peperoncino, non superiori ai 20 millimetri, non avere oltre i 2 milioni di unità Scoville di piccantezza, non contenere una percentuale capsicum non superiore al 2,5%, quindi ci sono dei parametri. E quindi i negozi vendono roba a normali leggi e qualcuno ne vende anche di non a norma, però poi peggio per chi lo compra o per chi o per quando glielo trova, insomma. Poi non ne parliamo, c'è quello che Natalino conosce, quella pistola a due colpi che ti spara praticamente una fucilata allucinante in faccia di liquido al peperoncino. Quello è proprio una fucilata, in faccia. Come che si chiama Natalino quella pistola a due colpi? Come si chiamava? Non me lo ricordo, però è potentissimo. Comunque tu fai essere sicuro. Nei negozi non le devi comprare, devi andare in armeria a acquistare queste cose. Stai tranquillo che è a norma di legge. Natalì, lascia perdere, certe cagate in armeria, me l'ho detto. Lascia stare. Non tutti sono preparati. Poi non devono essere, il getto non deve essere superiore ai 3 metri. La gittata utile. Il jet protector si chiama, quello che ha due cartucce a bombolette, no? Praticamente l'esplosione di una cartuccia spinge il liquido attraverso la canna, no, non attraverso la canna, attraverso la bomboletta. E quello in Italia, il jet protector in Italia è poi uguale a quello della Germania, no? Le bombolette hanno una gittata massima di 3 metri, quello che vendono in Germania c'ha 6 metri e mezzo di gittata, quindi non bisogna mai comprare le bombolette in Germania ma in Italia, che in Italia te le fanno pagare col sangue poi, capito? Se no è troppo c'è una cosa, nonostante spari a 3 metri, col jet protector raccomandano di non sparare mai sotto il metro e mezzo, perché se spari in faccia sotto il metro e mezzo a uno lo fai cieco, perché la potenza, la velocità del jet è tale, anche se è liquido, che li puoi fare cieco un occhio, capito? Lo puoi rovinare. E insomma, alla fine la cosa migliore è sempre la bomboletta, piccola, tascabile, la metti in tasca. O quantomeno quella pistola, te l'avevo fatta vedere, quella pistoletta bianca o rosa per le signore della Umarex. Dentro c'è una bomboletta da 11 mm, praticamente serve a mirare meglio, è tutto lì, capito? Serve solo a mirare meglio. E anziché il getto a nuvoletta, il getto balistico, cioè uno spruzzo tipo pistola d'acqua. Puoi mirare meglio, soprattutto non affoghi chi c'è intorno, non fai soffocare chi c'è intorno. Anche quello è un prodotto interessante, però alla fine spendi un bel soldi. E la cosa migliore è sempre la bomboletta. Poi, cosa che non c'è in Italia, perché in Italia siamo ottusi, no? Nel resto d'Europa, soprattutto in Germania, sono più intelligenti, c'è il gel, perché se tu in luogo chiuso, dove c'è altra gente, ti usi la bomboletta che fa la nuvoletta, cioè intossichi un po' di gente. Invece in Germania esistono bombolette che spruzzano gel, rimane solo locale l'azione, o schiuma o gel. Il gel può il migliore di tutti, capito? Ne approfitto io per salutarvi, mi hanno chiamato per la cena. Ci sentiamo più tardi a domani. Ciao a tutti! Ciao, tutti. Qua sono chiusi in tante maniere, per esempio il silenziatore in Italia non lo puoi né costruire né detenere, assolutamente, è vietato. Perché loro fanno l'equazione, guarda che menti superiori hanno, siccome il silenziatore lo usa la malavita per fare gli omicidi, allora è vietato. Guarda, in Italia siamo messi abbastanza male, In Italia cercano di vietare tutto, anche le bombe, poi gli istruttori elettrici, poi quelli europei fanno ridere, io li avevo provati in Germania, fanno veramente ridere. È un pizzichino che ti dà, capito? Quelli americani, arrivano, certi americani usano 2, 3, anche 4 batterie da 9 e sono messe in modo da usare l'amperaggio, cioè sono messe in parallelo in modo da avere tutto l'amperaggio possibile, o in serie, non mi dice no, in parallelo, per sfruttare tutto l'amperaggio delle quattro batterie, quelli fanno veramente male, no? Ma non è mai come il taser, ricorda, il taser è allucinante. In molti casi ha causato anche la morte delle persone, per dire. Ma l'istruttore a mano, ma io ho letto articoli anche vergognosi sugli istruttori elettrici, che ti scaraventano a terra, ma non c'è cazzo se ti dicendi, un articolo sulla nuova era veramente vergognoso, che trasformava una nonnina in una specie di Rambo, buffami luci, si vede che questa gente non è mai provata, capito, sulla loro pelle. Articoli vergognosi, anche leggi vergognosi, perché quelli omologati europei sono giocattoli natali, sono giocattoli, fidati, io li ho provati in Germania quando eravamo andati in pellegrinaggio. Signore, siamo messi male, poi con questa legge antiterrorismo che hanno tolto, siamo ancora più ridotti male. Adesso la pistola mia, la Glock, per esempio, nasce con i caricatori da 17 colpi. Beh, quei caricatori non li puoi tenere. Adesso quando te la prendono te la danno con i caricatori da 15, per non avere più colpi della polizia. Perché se tu vuoi il caricatore da 17 lo devi denunciare, anche se non è parte d'arma. Adesso te ne dico una, guarda cosa sono andato a inventare. Allora, siccome a certe guardie giurate o a certi vigili urbani, certe prefetture non volevano dare il manganello, non gliel'hanno autorizzato, guarda cosa hanno fatto, una ditta ha omologato, questa ditta ha creato questo piccolo manganello distanziatore, no? L'ha portato al banco di prova ed è stato classificato come non solo non arma, ma è classificato come non è neanche un oggetto atto ad offendere, pensa. Praticamente è un manganellino di quelli, sei telescopici, no? Che è fatto in plastica e in fibra di vetro, no? Sono riusciti a farlo omologare come non è nemmeno, non solo non è arma appunto, non è nemmeno oggetto atto a offendere. Quindi lo possono prendere vigili urbani, guardie giurate, anche i privati lo possono prendere. Si chiama PRG, mi pare, o PR580. È un po' ridicolo, ma è la stessa cosa che ti pigli una canna a pesca lunga 50 cm, no, e usi come fustino. Che poi io ho visto le prove, se vuoi ce lo tira a faccia uno, gli fa male, se ti devi difendere. Per difendere più o meno dovrebbe andare bene, ma non voglio nemmeno sapere quanto costa. C'è un mezzo giocattolino che, se usato bene, ti puoi anche difendere, però lo faranno pagare un bel. Un'amica mia era vigile urbana, ce l'aveva il manganello, quello retrattile, quella cannocchiata, però chi se ne impedì, visto che si era una barriata e ti gribava. Ma lo sai perché? Perché a questa qui hanno tentato di linciarla, no? Insieme al resto della squadra erano in ambulanza questi qui. E cazzo, la cavatura al bello, uia. Eia, dipende dalle città, dalle regioni. Io ho letto che ai vigili urbani in certe città italiane hanno vietato l'uso del manganello, che fosse il tonfa, che fosse il retrattile di metallo. Io ne avevo da parte uno in acciaio, però quello fa veramente male, è vietatissimo portarlo fuori casa. Perché questo aggeggino è lungo 58 cm, retrattile, chiuso, è lungo mi pare 20, 25, 28, non mi ricordo. Ed è proprio libero anche ai cittadini, libero porto, so che nessuno lo vende, quindi non so come si procura, quanto costa, capito? Va bene. Guarda, sono a 7:40, ho sacrificato Bonolis per te nel natalino. C'è stato un break, fallo venire avanti. Avanti su break. Allora, Santiago, quasi 9, radio buona. Buona radio, 4, chi è? Così, prova, e così è male. chi è andato a scatti? Chi sei, Luca? Allora, il primo passaggio era buono, il secondo ho sentito come degli scatti. Guarda, questo passaggio, a questa tacca ti dava qualcosa? Ho mangiato il segnale abbastanza, 9-10, ma è satura. Satura ma capibile ancora. Natalino, tu cosa dici? È asciutto. No, bassa. Bassa di radio, era meglio prima. Sicuramente ha attaccato un lineare, però la satura. Però ancora è capibile. Prova, parla vicino, Luca. 2-3, 2-3, 2-3. No, qualcosa ha attaccato. No, questo non era mai qua, questo è il primo passaggio. E questo è il secondo passaggio. 1, 2, 3, prova. Allora, è satura ma capibile. Posso darti un radio 3 attaccato. O comunque da liscio il primo passaggio è buona. Sì, magari non 5, 4, sai, per via un po' del soffio che c'è sotto, radio 4, dai. Invece quando sei più forte il segnale radio 3, è satura. Qualcuno ti dirà che è una cagata magari, però è capibile. Per il baracchino un po' altine sono, Pigliati un accordo a Torino, Rosmetro accordo a Torino, tipo il TM999. Mi vuol lontano dare un muro, Quindi Natali, come ti ho detto, in Italia c'è chi è messo peggio di noi, ti volevo dire una cosa, ti ricordi le pistole a salve, no? Con cartucce a salve di metallo? Prima si poteva portare, sai, adesso li hanno messi tra gli oggetti atti a offendere. Quindi se ti vuoi portare una pistola a salve, magari se fai scampagnate, se fai ciclismo fuori e paura che i cani ti azzanni, no. Ci deve essere un giustificato motivo, guarda che figli di bagassa. Poi è davvero, perché la pistola è pesante, se la tiri in testa uno gli sfondi il cranio. Dai, io vado a stare. Ciao Luca, ciao, le frutti. Lo so, purtroppo hanno fatto delle restrizioni e ci piangono tutti. Adesso tu pensa a questi poveri poliziotti o carabinieri che siano. Ma dimmi tu, come fai tu a dargli un caricatore da 15 solo? Quando tu vai a comprarti una pistola ce ne danno minimo 2. Ma loro non hanno un portacaricatorino alla cintura, no? Ma non ne hanno caricatore, non glieli fornisce il ministero. Il ministero lo, ma loro possono portarlo di proprio pugno o è vietato? Cioè devono portare solo quello che gli dà la dotazione, così è? Penso di sì. Che magari ci voglia il permesso del ministero per portarne un secondo. Io per esempio per la mia ne ho 4, tu pensa, 4 caricatori da 15 capisci? Mi pare che siano soggetti al ministero, ma mi pare anche vigili urbani, cioè in certe regioni gli hanno concesso lo spray al peperoncino, perché credo che di proprio pugno, no, ce lo portano personalmente, non si possa. E tutto, sono anche loro sono un po'. In certe città sono limitati. Comunque dicevo Natali, c'è chi sta peggio di noi, in Inghilterra è tutto vietato e sono allucinanti. Addirittura in Inghilterra vogliono pistole a salve dipinte di arancione, interamente o in parte di arancione, ma però non me l'aspettavo questa del certificato motivo. È chiaro che se io vado in campagna a correre, a fare una scampagnata in zone aperte e mi trovo un cane cattivo, feroce, magari sai quei cani che controllano le greggi, che mi viene addosso, e io devo poter sparare e spaventarlo perlomeno. Ti devi giustificare, quindi in caso di controllo magari non ci credono, non lo pigliano, cioè secondo il cervello, dicete i carabinieri, non è abbastanza giustificato il motivo. Capito? E quindi le leggi sono sempre a misura di ottuso, capito? Secondo la testa loro. Qua entra il governo di destra, vedrai, tutte queste leggi le tolgo. Ma di brutto però. Ma non ho mai detto che Salvini era contro le armi. No, no, proprio Salvini, la Meloni, soprattutto la Meloni bisognerebbe votare. Che vedrai cosa, che fine fanno gli immigrati e le armi a go-go. Registrato. E infatti volevo salutare o Salvini o la Meloni. Mia zia mi ha indicato la Meloni, è più moderata e ne sa. Avanti il break. Che controllo voi. E noi non te ne diamo. Quando tu esci bene che hai bisogno di controllo voi. 9 più 10 radio 5 qua Cinema Ariston. Altrettanto, stai facendo benissimo. Mi accendi tutte e quattro le leggi, non te ne posso dare di Santiago. La radio è buonissima. Ma è sempre il dipolo, Franco. Ehi, tu abiti vicino a Luca, Luca del Monte, no? Perché Luca, per esempio, con l'antenna sul tetto arriva a 9 più 30. È uno dei più forti, dai. Va bene. Capito, Nathalie? Invece in Francia, sai che cosa ti permettono in Francia? In Francia tu puoi comprare liberamente, senza documenti, senza porto d'arma e niente, una pistola a tamburo, stile... C'è quelle pistola ad avancarica del tamburo, quelle della guerra di secessione americana, 1860, tipo la Colt Navy, puoi comprare liberamente la pistola e la polvere nera, capito? Tutto, la pistola e la polvere nera, ad avancarica del tamburo. Mentre vabbè, per le pistole, però tu vai lì, te la prendi, ti carichi polvere per ogni camera, polvere. Se vuoi mettere il feltrino per separare la palla dalla polvere, lo puoi, la palla, capito? E c'è una pistola pronta a sparare, anche per difenderti a casa, per dire. In Italia, no, vietatissimo, porto d'armi. Non lo so che sì. Ma io in realtà, Nathalie, mi sono addirittura stupito che in Francia sia venduta liberamente la polvere nera, liberamente, senza porto d'armi, senza, cioè tu vai lì con i soldi e ti compri un barattolo di polvere, ma mi pare anche un po' l'onfio però, perché lì trovi lo scemo, si pila la pistola e poi comincia a sparare sulla folla, con la pistola da avancarica del tamburo, no? Tipo Colt Navy, tipo... com'era quell'altra marca? Vabbè, ci hai capito il tipo di pistola, no? Colt Navy, Colt Dragon e tutte quelle armi del 1860, che non esistevano ancora le cartucce metalliche. Copiato? Ah, Natalino è morto, mi? Stavo discutendo con la 5A. No, dico, hai capito il tipo di pistole, sì. Eia, eia, le ho capite. Ma quelle che roba di canna lunga hanno, lo sai che quelle sono potenti. No, guarda che in Francia ti vendono, in Francia ho visto tutti i modelli, ci sono anche quelle con canna da 2,5 pollici, 3, quelle piccoline tipo che usavano a Londra, i poliziotti di Londra alla fine del secolo. Tutti i modelli, ce n'era un modello, Nathalie, mamma mia, la baba mi era venuta. Una canna tipo 4 pollici o 5, acciaio inox e tutta intarsiata, te la devo far vedere, Nathalie, se trovo la foto te la mando. La fine del mondo era, però non si può acquistare per posta, vietatissimo. Addirittura quella è importata, non si può importare assolutamente, non si può, vietatissimo, tutto vietato in Italia, dai. Non puoi fare nulla in Italia. Ma sai perché in Francia, sai perché le vendono? Tu la puoi comprare, la pistola, la bancarica, la polvere da sparo, no? Però se fai casino, cioè, ma se qualcuno ti danno 30 anni di galera e te li fai tutti, capito? Come dicevano, una pena non inferiore ai 30 anni, da un film, capito? Se fai danno 30 anni di galera e te li fai tutti, non come in Italia, c'è il sovraffollamento, la buona condotta, l'indulto, e alla fine ne fai, per omicidio fai 10 anni solo e poi esci, se non di meno. Ma stiamo scherzando. In Italia ti danno 16 anni per omicidio, ma ti pare poi da essere l'ergastolo, fine pena mai. Sì, qua ci sono, te l'ho detto, sovraffollamento ti scontano una parte, buona condotta ti scontano una parte, ogni tanto questi, come si chiamano? Questi presidenti della Repubblica fanno quelle, l'indulti o come si chiama, la, quell'altro, non l'indulto, l'altro, la... L'amnistia. L'amnistia, ed è di galera, non esiste proprio, no? E Antari, comunque se dovessi adesso chiudere, non so andare a mangiare, perché adesso anche noi mangiamo, tieni il telefono a portata di mano, perché ti mando perlomeno la foto di quei piombini per carabina. Guarda, quelli sono i più belli che ho visto, gli altri sono pasticci, che magari hanno la testina in metallo ma arrotondata e quindi non fatti in nuda. Quelli me li voglio prendere, ma lo sai quanto costa una scatolina tonda? No, credo sia tonda, roba di 16 euro, 15 euro, la costano, ma sono spettacolari, Quelli a punta ci vogliono. Eia. Franco, Gianfranco c'è ancora, dai, io ti saluto che mamma sta portando da mangiare, dai. Natalì, abbiamo fatto una bella chiacchierata, pazienza al buon orso, non me la fotti nulla, ma almeno ci siamo intrattenuti, visto che non è entrato nessuno qua, dai. Ci sentiamo Natalì. Ciao anche a Franco, Gianfranco, insomma io lo chiamo Franco, California. Ciao a tutti, ciao, buona serata. Ciao Marco, le frutti, là. Tanto qua è già pronta a mangiare. Sentiamo le frutti. Ciao Franco, se ti nascolto, quello è per me.